Capitolo diciottesimo. Carattere e natura di Afrodite. Ben di rado Afrodite cedeva in prestito alle altre dee il magico cinto che faceva innamorare chiunque lo portasse, poiché era molto gelosa dei suoi privilegi. Zeus l'aveva data in sposa a Efesto, il dio fabbro zoppo, ma il vero padre dei tre figli che essa diede alla luce, Fobo, Deimo e Armonia, era Ares, il dio dal membro eretto, l'impetuoso, litigioso e ubriacone dio della guerra. Efesto non si accorse di essere ingannato finché gli amanti indugiarono a letto troppo a lungo nel palazzo di Ares in Tracia, ed Elio, sorgendo nel cielo, li scoprì intenti ai loro piaceri e andò a raccontare tutto a Efesto. Efesto, furibondo, si ritirò nella sua fucina e forgiò una rete di bronzo sottile come un velo ma solidissima e la assicurò segretamente ai lati del suo talamo. Quando Afrodite ritornò dalla Tracia, tutta a sorrisi e con la scusa pronta, assicurò infatti che si era recata a Corinto per sbrigare certe faccende, Efesto le disse: «Perdonami, cara consorte, ma debbo recarmi per una breve vacanza a Lemno, la mia isola favorita». Afrodite non si offrì di accompagnarlo, anzi, non appena Efesto fu partito, mandò a chiamare Ares, che si precipitò al palazzo. Ambedue si coricarono senza por tempo in mezzo nel talamo di Efesto, ma all'alba si trovarono prigionieri della rete, completamente nudi e senza possibilità di scampo. Efesto, ritornato dal suo viaggio, li colse sul fatto e invitò tutti gli dei a far da testimoni al suo disonore. Annunciò poi che non avrebbe liberato la moglie finché non gli fosse stata restituita la preziosa dote che aveva dovuto pagare a Zeus, padre adottivo della sposa. Gli dei accorsero subito per vedere Afrodite nell'imbarazzo, ma le dee, per un delicato senso di pudore, rimasero a casa. Apollo, canzonando Ermete, gli disse: «Scommetto che non ti spiacerebbe trovarti al posto di Ares, con la rete e il resto». Ermete giurò sulla testa che non gli sarebbe spiaciuto affatto, anche se le reti fossero state tre anziché una, e mentre le dee scuotevano la testa in segno di disapprovazione, Ermete e Apollo scoppiarono in una gran risata. Zeus era così disgustato che rifiutò di restituire la dote o di intromettersi in un litigio tanto volgare tra moglie e marito, dichiarando che Efesto era stato uno sciocco a mettere in piazza gli affari suoi. Posidone, che al vedere il nudo corpo di Afrodite si era subito innamorato di lei e a fatica celava la sua gelosia per Ares, finse di prendere le parti di Efesto. Poiché Zeus rifiuta di venirti in aiuto, gli disse: «Propongo che Ares, per riavere la libertà, ti paghi il valore equivalente alla dote di cui si discuteva poc'anzi». «Benissimo», rispose Efesto di cattivo umore, «ma se Ares non mantiene la promessa, dovrai prendere il suo posto sotto la rete». «In compagnia di Afrodite?» chiese Apollo ridendo. «Non posso nemmeno immaginare che Ares non mantenga la promessa», disse Posidone. «Ma se non la mantenesse, sono pronto a pagare il debito invece sua e a sposare Afrodite». Così Ares fu rimesso in libertà e ritornò in Tracia, mentre Afrodite andò a Pafo, dove recuperò la propria verginità bagnandosi nel mare. Lusingata dall'aperta dichiarazione d'amore di Ermete, Afrodite passò una notte con lui, e il frutto di quella breve avventura fu Ermafrodito, creatura dal doppio sesso. Afrodite ringraziò a modo suo anche Posidone per essere intervenuto in suo favore e gli generò due figli, Rodo ed Erofilo. Inutile dire che Ares non mantenne la sua promessa, sostenendo che se Zeus si era rifiutato di pagare, egli poteva fare altrettanto. Alla fine Efesto rinunciò al risarcimento perché era pazzamente innamorato di Afrodite e non aveva intenzione di divorziare da lei. Afrodite cedette poi anche alle lusinghe di Dioniso e gli generò Priapo, un orrendo fanciullo dagli enormi genitali. Fu Era che gli diede quello sceno aspetto, in segno di disapprovazione per la promiscuità di Afrodite. Priapo è giardiniere e porta sempre con sé un coltello da potatura. Benché Zeus, contrariamente a quanto taluni sostengono, non si giacesse mai con Afrodite, sua figlia adottiva, la magica cintura agiva anche su di lui, sottoponendolo a una tentazione continua, ed egli infine decise di umiliare la dea, facendola innamorare disperatamente di un mortale. Costui fu il bell'Anchise, re dei Dardani, nipote di Ilo. Una notte, mentre egli dormiva nella sua capanna di Mandriano sul monte Ida, presso Troia, Afrodite si recò da lui, travestita da principessa Frigia, il corpo avvolto in un manto di un bel rosso smagliante, e si giacque con Anchise su un letto di pelli d'orso e di leone, mentre le api ronzavano loro attorno. Quando all'alba si separarono, Afrodite rivelò al giovane la sua identità e gli fece promettere di non dire ad alcuno che era andato a letto con lei. Anchise, atterrito all'idea di avere svelato la nudità di una dea, la supplicò di risparmiargli la vita. Afrodite lo rassicurò, dicendo che non aveva nulla da temere e che il loro figliolo sarebbe diventato famoso. Alcuni giorni dopo, mentre Anchise stava bevendo in compagnia di certi amici, uno di essi gli chiese: «Non pensi sia più piacevole andare a letto con la figlia del tal dei tali anziché con Afrodite?» «No», rispose sbadatamente Anchise, «perché sono andato a letto con tutte e due e il paragone mi sembra assurdo». Zeus udì questa vanteria e scagliò contro Anchise una folgore che l'avrebbe ucciso senz'altro se Afrodite non l'avesse salvato all'ultimo momento proteggendolo con la magica cintura. La folgore scoppiò ai piedi di Anchise senza ferirlo, ma lo spavento fu tale che il giovane da quel giorno non riuscì più a raddrizzare la schiena e Afrodite, dopo avergli generato il figlio Enea, perse ogni interesse per lui. Un giorno la moglie di re Cinira di Cipro, ma altri dicono che si trattasse della moglie di re Fenice di Biblo e altri ancora della moglie del re Assiro Tiante, stupidamente si vantò che sua figlia Smirna era più bella della stessa Afrodite. La dea si vendicò di quell'insulto facendo sì che Smirna si innamorasse di suo padre e si introducesse nel suo letto in una notte buia, quando Cinira era tanto ubriaco da non capire quel che stava accadendo. Più tardi egli scoprì d'essere al tempo stesso padre e nonno del figlio che Smirna portava in grembo e, pazzo di rabbia, afferrò una spada e inseguì Smirna fuori del palazzo. La raggiunse sul ciglio di una collina, ma in gran fretta Afrodite trasformò Smirna in un albero di mirra, che fu tagliato in due dal gran fendente vibrato da Cinira. Dal tronco uscì il piccolo Adone. Afrodite, già pentita dell'errore commesso, chiuse Adone in un cofano e lo affidò a Persefone, regina dei morti, chiedendole di celarlo in qualche angolo buio. Persefone, mossa dalla curiosità, aprì il cofano e vi trovò dentro Adone. Il fanciullo era così bello che Persefone lo portò con sé nel suo palazzo. Afrodite fu informata della cosa e subito scese nel Tartaro per reclamare Adone. E quando Persefone non volle cederglielo perché ne aveva già fatto il suo amante, Afrodite si appellò a Zeus. Zeus, ben sapendo che anche Afrodite era smaniosa di andare a letto con Adone, rifiutò di dirimere una questione così sgradevole e la deferì a un tribunale di minore importanza, presieduto dalla musa Calliope. Il verdetto di Calliope fu che Persefone e Afrodite avevano uguali diritti su Adone, poiché Afrodite l'aveva salvato al momento della nascita e Persefone l'aveva salvato in seguito, aprendo il cofano. Tuttavia bisognava concedere al giovane una breve vacanza annuale, perché non dovesse sempre soggiacere alle amorose pretese delle due insaziabili dee. Calliope divise dunque l'anno in tre parti uguali. Adone avrebbe trascorso la prima in compagnia di Persefone, la seconda in compagnia di Afrodite e la terza da solo. Afrodite non si comportò lealmente. Indossando sempre la magica cintura, indusse Adone a trascorrere con lei anche quella parte dell'anno che gli spettava come vacanza e ad accorciare il periodo che spettava a Persefone, disobbedendo così agli ordini del tribunale. Persefone, giustamente irata, andò in Tracia e disse al suo benefattore Ares che ormai Afrodite gli preferiva Adone. «Un semplice mortale», aggiunse, «e per di più effeminato». Ares si ingelosì e, trasformatosi in cinghiale, si precipitò su Adone che stava cacciando sul monte Libano e lo azzannò a morte davanti agli occhi di Afrodite. Anemoni sbocciarono dal sangue di Adone e la sua anima discese al Tartaro. Afrodite in lacrime si recò da Zeus e chiese che fosse concesso ad Adone di trascorrere soltanto la metà più cupa e triste dell'anno in compagnia di Persefone, mentre nei mesi estivi sarebbe ridivenuto il suo compagno. E Zeus magnanimamente acconsentì. ma altri dicono che il cinghiale era in verità Apollo, smanioso di vendicarsi di un insulto fattogli da Afrodite. Un giorno, per ingelosire Adone, Afrodite trascorse parecchie notti con Bute e l'Argonauta sull'Ilibeo e divenne madre di Erice, re della Sicilia. Da Adone ebbe un figlio, Golgo, fondatore di Golgi nell'isola di Cipro, e una figlia, Beroe, che fondò Berea in Tracia. Altri dicono poi che Adone, e non Dioniso, fu il padre di Priapo. Le Moire assegnarono ad Afrodite un solo compito divino, quello di fare all'amore. Ma un giorno Atena la sorprese mentre segretamente tesseva un telaio e si lagnò che tentasse di usurpare le sue prerogative. Afrodite le fece le sue scuse e da allora non alzò più nemmeno un dito per lavorare. Gli Elleni di epoca più tarda cercarono di svilire la grande dea del Mediterraneo, che per molto tempo aveva avuto un potere supremo a Corinto, Sparta, Tespie e Atene, ponendola sotto la tutela maschile e condannando le sue solenni orge sessuali come se fossero sregolatezze adulterine. La rete che, secondo la descrizione di Omero, imprigiona Afrodite e Ares, era in origine un attributo della dea come patrona del mare, e pare che le sue sacerdotesse la indossassero durante le feste di primavera. Così pure facevano le sacerdotesse della dea scandinava Olle o Gode a Calen di maggio. Il culto del dio Priapo ebbe origine dal culto dei rozzi simulacri fallici in legno attorno ai quali si svolgevano le orge dionisiache. Egli è detto figlio di Adone per via dei giardinetti in miniatura che gli venivano consacrati durante le cerimonie rituali. Il Pero era sacro a Era come dea sovrana del Peloponneso, essa fu perciò chiamata Apia. Afrodite Urania, regina delle montagne o Ericina, regina dell'Erica, era la dea ninfa della mezza estate. Essa uccideva il divino Paredro che si era accoppiato a lei sulla vetta della montagna, così come l'ape regina uccide il maschio, cioè strappandogli i genitali. Ecco il perché del manto rosso come l'erica e delle api ronzanti che diedero un particolare carattere all'idilio di Afrodite con Anchise. Per la medesima ragione Cibele, l'Afrodite frigia del monte Ida, era adorata come ape regina e i suoi sacerdoti si autocastravano nel corso di un'estasi mistica in memoria di Attis, amante della dea. Anchise fu uno dei molti divini paredri colpiti da una folgore rituale dopo le nozze con la dea della morte e della vita. Nella versione più antica del mito, Anchise moriva, ma nella versione più recente riusciva a salvarsi per dare spunto alla leggenda del pio Enea che portò il sacro Palladio a Roma e salvò il vecchio padre dall'incendio di Troia caricandoselo sulle spalle. Il nome di Anchise ci fa identificare Afrodite con Iside, il cui marito Osiride fu castrato da Set sotto le spoglie di un cinghiale. Anchise è infatti sinonimo di Adone. Egli aveva un santuario a Egesta, Segesta, presso il monte Erice, e Virgilio infatti dice che egli morì a Drepano, Trapani, una città che sorgeva lì nei pressi e fu sepolto sulla montagna. Altri santuari di Anchise sorgevano in Arcadia e nella Troade. Nel tempio di Afrodite sul monte Erice si mostrava un pettine dorato che si diceva fosse un'offerta votiva fatta da Dedalo quando fuggì dalla Sicilia. Come signora della morte e della vita, Afrodite ebbe molti appellativi che paiono contrastare con la sua fama di dea bella e compiacente. Ad Atene essa fu detta la maggiore delle Moire e sorella delle Erinni, e altrove Melenide la nera, un nome che Pausania tenta di spiegare ingegnosamente dicendo che l'amore si fa per lo più di notte col favore dell'oscurità. Scotia, l'oscura, Androfone, omicida e anche, secondo Plutarco, Epitimbria delle tombe. Il mito di Cinira e di Smima ricorda evidentemente un periodo storico in cui il re sacro di una società matrilineare cercò di prolungare il suo regno oltre i limiti consueti. Vi riuscì sposando la giovane sacerdotessa che doveva diventare regina per il periodo seguente e che veniva nominalmente considerata sua figlia, anziché lasciare che essa si maritasse con un altro principe. Adone, dal fenicio Adon, signore, è l'equivalente greco del semidio siriano Tammuz, lo spirito della vegetazione. In Siria, in Asia Minore e in Grecia, L'anno sacro alla dea fu un tempo diviso in tre parti, sotto la protezione del leone, della capra e del serpente. La capra, Ariete, emblema della stagione centrale, era la dea dell'amore Afrodite. Il serpente, emblema dell'ultima stagione, era la dea della morte Persefone. Il leone, emblema della prima stagione, era invece sacro alla dea della nascita, qui chiamata Smirna, che non vantava pretese su Adone. In Grecia questo calendario fu sostituito con l'anno di due stagioni che iniziavano a Sparta e a Delfi con gli equinozi, secondo l'uso orientale, oppure come ad Atene e a Tebe, coi solstizi secondo l'uso settentrionale. Il che spiega perché la dea dei monti Calliope e Zeus emettessero verdetti diversi. Tammuz fu ucciso da un cinghiale, come molti altri personaggi mitici: Osiride, lo Zeus cretese, l'arca de Anceo, Carmano, re di Lidia, e l'eroe irlandese di Armuid. Questo cinghiale pare fosse in origine una scrofa con zanne lunate, ma quando l'anno fu diviso in due parti, la parte più splendida retta dal sacro re e la parte più oscura retta dal suo successore o rivale, codesto rivale si presentò travestito da cinghiale, come Set che uccise Osiride o Finn McCool che uccise Diarmuid. Il sangue di Tammuz si identifica allegoricamente con gli anemoni che rosseggiano sulle pendici del monte Libano dopo le piogge invernali. E a Biblo, ogni primavera, si svolgevano le Adonie, una festa funebre in onore di Tammuz. La mirra era un noto afrodisiaco, e il fatto che Adone nascesse appunto da un albero di mirra si ricollega al carattere orgiastico dei suoi riti. Si credeva che le gocce di resina grondanti dal tronco della mirra fossero lacrime versate sulla morte di Adone. Secondo Igino, Cinira era re dell'Assiria, forse perché il culto di Tammuz pare fosse originario di quella regione. Ermafrodito, figlio di Afrodite, era un giovinetto con seno femminile e lunghi capelli. Come l'androgino o donna barbuta, l'ermafrodito ebbe naturalmente una certa notorietà per le sue anormalità fisiche, ma da un punto di vista religioso ambedue simboleggiano il periodo di transizione tra il matriarcato e il patriarcato. Ermafrodito è il divino paredro che si sostituisce alla regina e porta un seno finto. Androgine è la figura della madre di un clan preellenico che ha rifiutato l'ordine patriarcale e, allo scopo di mantenere le sue prerogative e legittimare i figli nati da lei e da un padre schiavo, si mette una falsa barba come accadeva in Argo. Dee barbute come Afrodite Cipria e dei effeminati come Dioniso corrispondono a questi stadi sociali di transizione. Armonia, a prima vista, pare un nome ben strano per una figlia nata da Afrodite e Ares, ma a quei tempi, come adesso, all'interno degli stati impegnati in una guerra, regnava molta più armonia che in tempo di pace.